Diciamo che come Mujeres Libres la borsa è stato sempre uno dei nostri cavalli di battaglia e ormai da tantissimi anni ci impegniamo su questo, su accesso all'IVG e lotta all'obiezione di coscienza. Quest'anno però ci siamo sentite di dare ancora più risalto al 28 settembre, che è la giornata internazionale per l'aborto sicuro. È una giornata proprio internazionale che cade proprio a fine settembre, quindi abbiamo deciso di caratterizzare tutto il mese il più possibile con iniziative di avvicinamento a questa data. Parto dalla fine e dico che infatti il 28 settembre ci sarà un corteo cittadino che speriamo il più partecipato possibile, che vedrà coinvolte tantissime realtà transfemministe di Bologna proprio per animare questa giornata. Sarà una giornata caratterizzata ovviamente dalla volontà di dire che l'aborto è un tema ancora attuale, che non abbiamo vinto, nonostante abbiamo fortunatamente una legge che ci fa accedere all'aborto nel servizio sanitario pubblico, ma sicuramente abbiamo ancora molto più da chiedere e ancora fronti su cui lottare. E poi soprattutto vuole essere una giornata internazionale in cui ricondurci alle lotte delle compagne argentine con cui abbiamo festeggiato, ma anche alle donne texane che ultimamente se la vedono molto male, e così a tutti gli altri paesi che stanno messe peggio di noi. Quindi sicuramente noi abbiamo qualcosa su cui combattere ancora, ma vogliamo avere davvero uno sguardo transnazionale e portare l'attenzione sulle diseguaglianze in tutto il mondo sulla questione aborto. Poi sicuramente ci saranno anche questioni su cui siamo contente, come per esempio le compagnie argentine, ma anche in Italia l'accesso all'RU 486 è sicuramente migliorato e incentivato. Poi questa appunto era la fine, torniamo all'oggi, e oggi ci sarà un aperitivo di inaugurazione a VAG 61, inaugurazione di tutte appunto queste giornate da qui al corteo. Stasera sarà appunto un aperitivo di presentazione di questa campagna, ci sarà serigrafia, cibo, accompagnamento, chiacchiere, ma soprattutto ci sarà la presentazione della mappatura regionale sull'obiezione di coscienza. La mappatura è un progetto che ha visto le compagne coinvolte di tutta Italia, nodi di una di meno, ma anche in realtà sì, che appunto ha avuto l'obiettivo di scovare tutti gli obiettori di coscienza d'Italia e capire quali sono le percentuali. A Bologna oggi presentiamo ovviamente la sezione locale e i dati locali. Altro grande, diciamo, iniziativa da qui al 28 è il boicottaggio del film Unplanned. Questa, diciamo, è un'iniziativa, diciamo, che non si esaurisce finché il film non verrà cancellato. Però il 15, mercoledì 15 al cinema Fossolo, ci sarà la prima proiezione bolognese di questo film, che è un film chiaramente anti-abortista e anti-femminista, un film a mio parere scandaloso, ma non solo a mio parere, in cui praticamente tramite falsità, tramite una storia in cui pro vita passano per dei paladini della giustizia, sostanzialmente si racconta come l'aborto sia un'atrocità e come ovviamente l'idea di avere un aborto libero sia una cosa da condannare. Un film falsissimo, che ha una forte attenzione alla possibilità di proiettarlo nelle scuole. Ci sono proprio delle schede tecniche su come richiedere, diciamo, un intervento didattico di questo film nelle scuole. È un film molto problematico, è un film americano del 2019 e adesso è arrivato in Italia. Abbiamo chiamato il cinema Fossolo più volte, ci siamo dato delle risposte ambigue e poi abbiamo detto a tutte di scrivere e di chiamarli per chiedere l'annullamento. Ci sarà la proiezione al cinema Fossolo e poi al cinema Chaplin il 28, giornata internazionale dell'aborto. A Bologna si proietterà questo film. Questa è la città col cinema all'aperto più bello del mondo, con una cultura fantastica, ma in cui appunto a settembre però ci tocca vedere che nei nostri cinema c'è un'oscenità come un film così davvero fortemente antiabortista e fortemente antifemminista. È chiaramente un film sostenuto da tutte quelle gruppuscoli dell'estrema destra anti-gender, o meglio anti-scelta, che stanno facendo purtroppo un fortissimo lavoro della società civile contro l'aborto e tutto ciò che non è la famiglia naturale. Vi invitiamo ancora a chiamare il Fossolo e a chiedere l'annullamento del film, e poi, diciamo, ci dedicheremo anche al cinema Chaplin, che è anche più vicino alla città. Poi il 23 settembre ci sarà l'iniziativa con la presentazione del libro di Angela Balzano, col libro Per farla finita con la famiglia. Si parlerà di salute riproduttiva, ovviamente anche di aborto, ma anche di tutte le lotte che è dal basso per la libera scelta delle donne. Insomma, sono giornate molto intense, ma vogliamo arrivare al 28 settembre davvero molto cariche e potenti, perché pensiamo a quella che c'è ancora da dire, e anche a Bologna e nell'Emilia Romagna, che è una città che una regione che si vanta una sanità fantastica, l'obiezione di coscienza esiste ed è problematica. Una gloriosa cultura ci sono film del genere, vuol dire che c'è ancora da fare, c'è ancora insomma da rimboccarsi le maniche. In più il 28 settembre sarà lo slancio per l'Assemblea Nazionale di Una di Meno, che ci sarà a ottobre.